seppurre nell'amor, o seppurre l'anni madre, o seppurre nell'amor, via quando era mosa il suo amor con mi signor, via quando era mosa il suo amor con mi signor.